Buonasera chi ascolta Radio Big World, oppure buongiorno se l'ascoltate di mattina. Il tempo non conta. Anche oggi parleremo di quanto è valido mescolare acqua e vino, mescolare razze, mescolare saperi. E oggi noi mescoliamo maschi e femmine e sicuramente da questa mescolanza nascerà il sesso. In merito vi racconto cosa mi è successo da poco e ognuno farà le sue considerazioni. Quel giorno non so se sognavo oppure ho visto il futuro. Fate voi, non è importante questo qui. Ho visto una grande città, calma, con auto veloci e silenziose che circolavano lasciando l'aria pulita come quella della montagna. Gli edifici di questa grande città erano molto belli e a misura d'uomo perché erano luminosi e anche colorati e confortevoli. Per le strade pulite e parzialmente automatizzate, le persone camminavano senza fretta e si fermavano per due chiacchiere con gli amici. Dalle strade più grandi si accedeva a gradevoli spazi simili ai nostri giardini e spazi molto ben tenuti, e anche si accedeva a locali di divertimento e cultura. Mi ha colpito una cosa: nella città non c'erano banche. All'ora di pranzo potevi accedere ai locali per la ristorazione collettiva, ti sedevi al tavolo ordinando quello che desideravi e velocemente ti veniva servito il pasto da te desiderato. Tutte le porzioni erano di piccole quantità. Se non bastava potevi richiedere ulteriormente un'altra porzione, ma non c'era nel ristorante nessun contenitore per i rifiuti. Non si poteva sciupare niente. I cibi avevano un po' le apparenze dei nostri cibi di oggi, ma in quella città, in quel pensiero, non si allevavano animali per la macellazione. Le proteine e le vitamine provenivano da particolari coltivazioni in acqua marina, da cui si ricavavano nutrienti presentati poi come bistecche, caviale, gustoso spezzatino. Ma non si allevava animali. C'era e si nutriva con l'acqua e con l'energia del mare questa massa gelatinosa ricca di proteine, di vitamine e di sali minerali che, trasformata in maniera che apparesse desiderabile come cibo, nutriva le persone della città. La massa gelatinosa non era un essere vivente, ovviamente, ma era un insieme di composti che, come si diceva, derivavano dall'acqua marina. Una massa gelatinosa nel senso che se voi fate qualche esperienza di accrescimento, di coltivazioni di batteri, di microorganismi, vedete che ne viene fuori una massa gelatinosa. Io di più di quella massa non so dirvi. La città era vicina al mare, quindi anche vicina a questa massa gelatinosa, e persone addette controllavano e lavoravano questa massa che serviva per nutrire tutti. Questo è una cosa importante. Comunque la città, che era vicina al mare, era collegata da ampie strade lungo le quali si trovavano laboratori, uffici, centri di produzione, dove si produceva tutto quanto serviva ai cittadini, comprese le bistecche di cui abbiamo parlato prima, che avevano origine nella nostra massa gelatinosa. Nella pineta prossima alla spiaggia c'erano tante persone occupate in cose gradevoli, ed erano maschi e femmine, e trascorrevano lì il loro tempo libero giocando. Gruppi di bambini erano con i loro istitutori, giovani e adulti amoreggiavano, i vecchi ragionavano ricordando il passato. Lì le coppie in amore non erano stabili, nel senso che non esisteva la famiglia come noi la concepiamo oggi. Poteva avvenire che due persone passassero tutta la vita insieme, oppure no. Nessuno dei due casi era eccezionale. Avveniva. Mentre nella pineta due facevano l'amore, vicino a loro altri passeggiavano e discutevano, per niente interessati alla sessualità della coppia. Nessuno era meravigliato della loro intimità, perché il sesso era una cosa normale, non peccaminosa, non da nascondere, era una cosa bella. Era normale, come è normale osservare al ristorante quelli del tavolo vicino senza criticare le loro scelte alimentari. Ma la cosa più strabiliante in quella città, in quel paese, in quella civiltà, era la procreazione. Si poteva concepire facendo sesso o in altro modo. E dopo 3 mesi la gestazione passava dal corpo della madre al centro di natalità. Lì il bambino raggiungeva la sua maturità, seguito da amorevoli istitutori, e tutta la società si occupava della crescita di quel bambino. Tutto questo era molto bello, perché finalmente la sessualità non aveva più lo scopo di conservare la specie umana, ma era un modo, come tanti altri, per divertirsi, relazionarsi, soddisfare il piacere del corpo e coinvolgere le emozioni. Non so se era un sogno oppure ho visto il futuro, ma questo non è importante. Chi ascolta farà le sue considerazioni. Ciao e buona giornata!